Senta, ma Amadeus adora lavare i piatti, Gasparri passa l'aspirapolvere, lei che cosa fa in casa? C'è un'occupazione? Fai qualcosa per l'economia di casa Cairo? In questo momento sono a casa con mia figlia, sì. E cuciniamo, lei è più brava di me, io faccio delle cose molto semplici. Tipo, beh, cosa fa, Presidente? Il cavallo di battaglia qual è, Orfano? Io mi faccio un nuovo al pergamino. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Soluzione migliore sarebbe chiudere qui tutto, UEFA, Champions, Coppa Italia, non abbiamo mai giocato questa stagione, un bel rigo rosso sopra e ricominciamo tutto l'anno prossimo. E se qualcuno ci ha rimesso, chi è che non ci ha rimesso il coronavirus? I miei giocatori, il mio presidente, i miei tifosi, la nostra società meritano di giocare la Serie A, perché noi siamo in Serie A da febbraio, per cui non vedo alternative, ma al di là della mia questione personale, che a me interessa poco in questo momento, io penso che per il bene di tutto il sistema si debba giocare. Le vacanze purtroppo le abbiamo fatte in questo periodo non volendo, per cui noi non ci interessa niente. Secondo me la Lega sta sbagliando nel decidere per forza di andare avanti con questo torneo, nel senso che è un momento tragico in cui ci sono morti per tutta la nazione, tutto il mondo. Non vedo la necessità di dover per forza riempire la pagina di un almanacco, può rimanere anche bianca e nessuno si offenderà. Secondo me il campionato è finito, perché diciamo che servono i 2 mesi e mezzo, perché magari la cosa sta migliorando eccetera eccetera, vuol dire che tu potresti ricominciare ad allenarti a fine maggio, sì. Ma allenarti a fine maggio vuol dire che per andare in forma le squadre ci mettono 3 settimane, ovvero potresti ricominciare a giocare a fine giugno, sì. Fine giugno vuol dire fare 2 mesi e andare a finire ad agosto, sì. E poi devi dare un mese di vacanza, sì. E poi un mese di allenamento, ricominci il campionato a novembre. Buongiorno a tutti, oggi Alessandro Marcottulli e Claudia Schiattone, Roberta Frisani in regia e come normale Pierluigi Pardo, buongiorno. Ciao, ciao ciao. Come normale ci prepariamo a campionati chiusi in qualche modo molto creativo oppure ad un'estate piena di polemiche e di ricorsi, lo sai, sì. Sì, lo so, siccome sono già i primi vagiti delle polemiche che arriveranno, ma insomma... è abbastanza normale e vogliamo anche dire che, almeno voglio dire che è un po' un segno anche della normalità della vita, sì. Cioè mi manca poter vedere Auriemma e Cruciani che discutono per un rigore in Lazio-Napoli o in Juve-Napoli, no? Mi manca perfino il VAR, guarda sì, cosa arrivo, guarda cosa arrivo a dirti. Mi mancano anche proprio gli strafalcioni arbitrali, o mi manca quasi tutto. Tanto gli scazzi tra presidenti sono garantiti, sì, anche in queste situazioni. Allora io vorrei appunto allargare approfondire ovviamente il discorso con voi. 800 24 00 24, telefonate, WhatsApp vocali 349 238 6666, o deciderà il virus, ma decideranno anche gli uomini. Ovvio che ci siano interessi di parte, interessi contrastanti, e chi vuole fermare tutto qui già tirando giù la carta ora, chi dice aspettiamo ancora un po', e poi c'è la storia degli stipendi sospesi mica sospesi, ma soprattutto c'è la questione del disegno della prossima stagione, che mi sembra discretamente importante. Antonello Valentini, buongiorno. Ciao, buongiorno, grazie dell'invito. Ciao. Ciao Antonello. Io saluto, ciao, anche, ciao. Saluto anche un neo convocato che è Pietro Basciano, che è presidente della Lega Nazionale Pallacanestro, che raggruppa le squadre della seconda serie di basket, per chi non lo sapesse, cioè la Serie A2 e la Serie B, e si tratta di capire anche qui quali sono gli umori prevalenti, oltre che nella Serie B di calcio. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, allora parto da lei. I presidenti della A2, che si fa adesso? Quali sono gli umori prevalenti sulla conclusione di questa stagione. Si finisce qui, si congela tutto, si definisce la, si rimane la situazione esistente. Che succede? Allora, come prevalenza, la decisione è quella di temporeggiare e attendere ancora che ci siano le decisioni ufficiali e quindi che ci sia da parte degli enti preposti un'indicazione su cosa succederà nei prossimi 18-20 giorni. E da lì poi riuscire a capire se ci sono i presupposti per poter fare un playoff o playout con porte aperte, situazione sanitaria chiaramente migliorata e rischi zero chiaramente, e ci siano le condizioni per poter tornare su parquet. Questa per quanto riguarda la maggioranza dei club di A2. Stiamo attendendo e chiaramente decidere oggi in modo affrettato non è il momento. Oggi, in questo momento, non possiamo permetterci di fare errori, né di affrettare né dire chiudiamo tutto, né affrettare né dire ripartiamo, perché non siamo nelle condizioni di poterlo fare. No, questo è chiaro. Antonello, sono riuniti in questi minuti i presidenti della B di calcio. È chiaro, abbiamo sentito Inzaghi nella nostra intro, è chiaro che ci sono anche lì interessi contrastanti. Una possibilità potrebbe essere quella di aumentare il numero dei partecipanti alla Serie A a un numero insostenibile, secondo me, cioè 22, anche se in maniera transitoria. Che può succedere adesso? Ma quella di portare la Serie A a 22 squadre è un'ipotesi ingestibile, francamente, devo dire francamente. Ci sono molte opinioni in questi giorni e ovviamente, ci mancherebbe altro, sono tutte legittime. La mia, con molta franchezza, in tutta modestia, è quella che bisogna fare il massimo sforzo per portare a termine la stagione. Qui ci sono c'è una sfida che deve conciliare, secondo me, tre aspetti. La regolarità del campionato, e non parlo soltanto della Serie A, perché c'è la Serie B, c'è la Serie C, ci sono 15.000 partite a settimana della Lega Nazionale Dilettanti sui campi dove giocano i nostri figli, i nostri nipoti. Ci sono le coppe europee, e la UEFA so che sta ipotizzando una strada. E poi ci sono gli interessi legittimi delle squadre nazionali. La sfida ovviamente è questa. Io credo che sia doveroso da parte della federazione, come sta facendo, avere nel cassetto due o tre piani alternativi, ma non decide nessuno di noi, non decide Ceferi, non decide Gravina, non decide Dalvino, non decide nessuno di noi, se non questo maledetto incubo collettivo quando finalmente ci lasceranno campare. Detto questo, io quello che auspico, ma purtroppo i segnali anche questa volta non sono incoraggianti, è che ci si tolga la maglietta di parte della propria squadra e si cerchi di ragionare. No, ma guarda, sembra ma facile. Ora, predichiamo male e razzoliamo peggio. Alcuni predicano male e razzolano peggio. Io voglio dire qui, grazie al vostro invito, che trovo veramente inqualificabile, e uso un eufemismo per non rischiare una querela, che ieri il responsabile della comunicazione della Lazio, ho controllato ancora poco fa, che è nella gerenza della società, ma lo Tito a volte si dissocia, a volte si associa al signor Diaconale, il quale ha detto che la Juventus vuole annullare il campionato in corso per avere lo scudetto d'ufficio e dedicarsi alla Champions. Queste sono le parole tra virgolette. Io questo lo trovo veramente inqualificabile. Uno, perché la Juventus ha già detto che uno scudetto così non lo vorrebbe e non lo vuole. Due, perché sarebbe comunque inaccettabile, anche se il campionato dovesse fermarsi ora, assegnare uno scudetto a tavolino. Su questo quindi, penso siamo d'accordo tutti, a partire da Pierluigi. Io sono d'accordo. Sono d'accordo. Ieri, e quindi buttare benzina sul fuoco della tensione, diciamo, sociale, della tensione tra i tifosi che la Juventus può annullare per avere lo scudetto d'ufficio, giudicatela voi questa cosa. Secondo me è assolutamente legittimo. È veramente inqualificabile, è veramente inqualificabile. Allora bisogna, secondo me, fare ogni sforzo possibile per portare a termine il campionato, giocando a giugno, giocando a luglio, se sarà possibile. Certo. se sarà possibile. Sì, però vedi che anche lì, a proposito di interessi di bottega, vedi che anche lì non si trova una, comunque un'unità di intenti, cioè perché allora, c'è chi è per vedi, chiudere tutto adesso ufficialmente, Pierluigi. Ma vedi, Carlo. Sì, no, allora per me è assolutamente legittimo che la Lazio e tutti vogliano giocare, ed è quello che auspico, cioè io spero ancora da inguaribile ottimista ci siano i margini per poter finire la stagione in maniera regolare con queste 12 giornate e mezza che mancano alla fine e con le coppe europee, magari sulle coppe europee si può pensare anche a una formula negativa, una final eight, magari a Istanbul, non lo so, lì l'UEFA ci penserà, quindi da inguaribile ottimista io spero che questo succederà. Penso che se la stagione non finirà in maniera regolare a segnare lo scudetto alla Juve, alla Lazio, all'Inter, a chi volete voi, sia una follia, veramente, perché se il campionato finisce, e me lo auguro, è giusto che venga assegnato, altrimenti no. Ma da questo punto di vista, diceva giustamente Antonello, non credo che neanche la Juve, per questo piccolo vantaggio che ha adesso, voglia lo scudetto. Un conto è se si riprende e lo vince sul campo, allora a quel punto secondo me è giusto assegnarlo alla Juve, alla Lazio, a chi sarà, ma se non è così è giusto non assegnarlo. Però ripeto, bisogna fare di tutto secondo me per provare a giocare, ovviamente se ci sono gli elementi di sicurezza. E capisco, sinceramente capisco, al di là di tutto, insomma, che ognuno, capisco Inzaghi, perché chiaramente il Benevento si sente vicino alla Serie A e vuole conquistarla, capisco la Lazio che vuole giocarti le sue carte fino in fondo, capisco tutti. Arrivo anche a capire chi, arrivo anche a capire nel quale, Carlo, nel momento nel quale il tema della discussione diventa si riprende o non si riprende, è chiaro che c'è chi se ne andrebbe volentieri in vacanza perché magari in questo momento è salvo, e chi invece se la vorrebbe giocare. Questo è umano, ecco, questo è un elemento umano. Volevo tornare da Pietro Vasciano per due cose. La prima, c'è nella vostra Lega una unità di intenti, o anche lì ci sono spinte diverse in funzione di tutto sommato legittimi interessi? Punto primo. Punto secondo, mi faccio capire una cosa, ma se dovessero riprendere i vostri campionati, riprenderebbero con le porte aperte come condizione? Mi pare di aver capito. Le rispondo subito dalla seconda domanda. Sicuramente dalle porte aperte al pubblico, giocare a porte chiuse in un palazzetto non ha senso assolutamente. E ricordiamoci, noi abbiamo anche il problema che non possiamo andare oltre giugno, perché in Italia purtroppo un buon 80% dei palazzetti non ha aria condizionata, e giocare all'interno di un palazzetto a luglio con 30-40 gradi all'interno non è praticabile assolutamente. Abbiamo visto cosa è successo nelle stagioni scorse nei playoff di Serie A, dove i palazzetti senza aria condizionata la gente era praticamente come se fosse al mare, quindi impossibile. Quindi non possiamo andare oltre un determinato periodo, è una situazione diversa da quello che è il calcio. Per noi il limite è giocare a più tardi fino a giugno, oltre diventerebbe impraticabile. Sul discorso delle società che sono d'accordo, è chiaro che come nel calcio, anche da questa parte c'è chi vorrebbe cogliere a volo l'occasione di fermare tutto e magari fermare la stagione per salvare il salvabile, inteso come bilancio, inteso come titolo, e fermarsi qua a ridurre i costi. C'è invece chi ha investito, chi chiaramente vorrebbe portare a termine la stagione. La maggioranza sono quelli che, e parlo di una maggioranza molto ampia, sono quelli che vorrebbero attendere e fare possibile eventualmente di arrivare a maggio, poter giocare maggio-giugno. Dipende molto, Carlo, dipende molto da un po' quello che diceva Cairo nella nostra clip iniziale, dipende molto dalla preparazione, nel senso che se tu immaginiamo inizio maggio, dai, che forse con un pizzico di buona sorte potrebbe diventare il momento in cui ricomincia la vita, sia pure gradualmente. Allora, se tu abbiamo previsto il 13 di maggio. Appunto, se tu a maggio, io penso adesso alla Serie A, no? Alla Serie A e alle coppe, se tu a maggio pensi di poter ricominciare a porte chiuse le partite è un conto, se a maggio pensi di ricominciare ad allenarti è chiaro che anche che fai 10 giorni, 15 giorni di preparazione già perdi 2-3 giornate, quindi questo secondo me è veramente il tema. Quello che dice Caio ha una sua logica, è chiaro che se ti dai il via libera per gli allenamenti a inizio maggio non ce la fai. Se invece il via libera per gli allenamenti dovesse arrivare prima e a inizio maggio dovessero ricominciare le partite, sia pure in sicurezza, a porte chiuse, ma ripeto, qui ha ragione Antonello, qui non decido, non decido io, non decidi tu, non decide lo titolo, non decide Agnelli, decide il virus. Altro, ecco. Decideranno poi anche gli uomini, però, sì, Pierluigi. C'è un altro aspetto da considerare, perché ho letto che alcune società stanno richiamando i calciatori che sono andati all'estero. Fuori all'estero. Benissimo. Io voglio dire due cose sempre papale papale. Allora, chi è andato, bisognerà ovviamente verificare chi è andato legittimamente rispetto alle prescrizioni del governo italiano e alle date di certi divieti. Ovviamente questi calciatori tornati in Italia dovranno fare rispettare come tutti i periodi di quarantena, e se avessero violato le prescrizioni del governo italiano andrebbero secondo me perseguiti per legge. Questo lo dico con estrema franchezza. Detto questo, qui il problema, finalmente, da qualche giorno abbiamo capito che non è tanto quando si ricomincerà a giocare, ma se si ricomincerà a giocare. Il problema resta questo. Ovviamente quando io dico ogni sforzo per riprendere a giocare, credo di dire una cosa che sta a cuore a tutti i tifosi italiani, a tutti gli appassionati, non soltanto di calcio, del basket, di tennis, del ciclismo, e chi più ne ha più ne metta, ovviamente, cioè che riprenda la vita dello sport. Se per fortuna, come tutti ci auguriamo, il coronavirus lascerà il campo e si apriranno veramente i campi alle squadre di tutti gli sport italiani. Il problema è solo questo. Io mi auguro che il calcio sappia, al di là delle iniziative private e anonime di donazioni, di solidarietà, che sono forse le più vere e comunque insindacabili, mi auguro che il calcio dimostri, cosa che non ha fatto per tanto tempo, anche in questa vicenda, di non considerarsi, di non essere un mondo a parte. Il calcio è una parte. No, ma non è un mondo, Antonello, ma non è un mondo a parte. Cioè, deve avere il senso delle proporzioni e della misura, perché sì, attorno a noi sta succedendo qualche cosa di biblico. Allora, anche questo fatto degli stipendi, io non mi meraviglio, certo stona il fatto che ieri Lega e AIC non siano andati avanti, non si siano visti, però il sindacato, ricordiamocelo, tra tanti difetti, non ha la titolarità di imporre una linea, può dare dei suggerimenti, degli orientamenti, si tratta di contratti individuali e quindi è giusto che ogni società si confronti, e non soltanto con i calciatori, perché ci sono gli allenatori, ci sono i dirigenti, ci sono gli staff, ognuno faccia la sua parte, scusate il gioco di parole, in quota parte. Una cosa è Cristiano Ronaldo, una cosa è il calciatore di Serie C che guadagna 50.000 euro lordi all'anno, ma ognuno contribuisca. Sì, ma non credo che non arriveranno a contribuire, e credo anche che, insomma, in questo momento c'è questa ondata molto popolare, molto di largo consenso, per cui si tende a chiudere tutto. Anche il ministro dello sport ha detto non li faccio allenare per tutto aprile, o una roba del genere, il che mi sembra tantissima roba. Esatto, però in questo momento è molto non di largo. Ha dato grande prova di se stesso. No, sono d'accordo, sentiamo, ma è quello che ti dico. I sanitari e i medici quando si potrà tornare esattamente, in campo. Esattamente. Però in questo momento si cavalca questa onda abbastanza di largo consenso, per cui si dice: ok, tutto chiuso, i calciatori si riducano gli stipendi. Sai, in questo momento tieni largo consenso dicendo queste cose, però il problema è che. Torno da lei, Basciano. Qui si rischia di andare verso una, perdonatemi l'espressione, ma una selezione naturale dal punto di vista economico dei club che avremo ancora, perché la riduzione, se non avverrà sul campo, avverrà per ragioni economiche, no? Beh, è chiaro che questa comunque finisca è un bagno di sangue umano ed economico, e quindi chiaramente i club, soprattutto quelli che in questi anni non sono stati intelligenti nel gestire i budget, è chiaro che l'economia sui club peserà notevolmente, quindi una selezione ci sarà sicuramente, questo purtroppo sarà così. Adesso è chiaro, poter presto per dirlo, ma a giugno, luglio, quando inizieranno le iscrizioni per la prossima stagione, vedremo sicuramente molti club che probabilmente saranno costretti a rinunciare alla categoria in cui fino a oggi hanno giocato, perché purtroppo economicamente non sarà possibile. Ricordiamoci che gli sponsor stanno subendo gli stessi problemi industriali e quindi economicamente anche loro fanno fatica a stare dietro a quello che fino a ieri era la passione dello sport, quindi chiaramente ci aspettiamo una riduzione su tutto e conseguentemente una selezione tra virgolette naturale, chiamiamola così, sì, di quello che sarà il futuro, perché quello che preoccupa non è riprendere adesso, quello che preoccupa è la stagione 2021. Quello è il problema su cui ci dobbiamo, dobbiamo attenzionare, quello su cui gli enti preposti, CONI e o il ministro dello sport dovrebbero cominciare a ragionare, che il problema è il 2021, non è oggi. Certo, questo è chiarissimo. Si potrebbe arrivare, le chiedo ancora questo, poi la saluto, si potrebbe arrivare ad una, ad un'idea per cui ad un campionato, a prescindere da quello che il campo ha detto, ci si iscrive se si hanno i requisiti economici? Assolutamente sì, ma è già così da noi in A2, in A2 in qualche modo è già così, perché c'è una fiduzione che seleziona un po', quindi in qualche modo è già così, sicuramente uno per proteggere i club, chiamiamoli tra virgolette, che in qualche modo hanno lavorato bene in questi anni seri, e da chi invece vuole fare il furbo, da chi vuole approfittarne di questa situazione, e chiaramente dovremmo un po' stringere il collo di bottiglia, questo è evidente, bisogna farlo assolutamente. Vedremo un attimino nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, quando sarà il momento di cominciare a lavorare su quelle che saranno le nuove regole per le prossime stagioni, anche perché questa situazione qua deve darci l'opportunità di poter in qualche modo azzerare e rivedere quello che fino ad oggi non ha funzionato e magari sfruttarlo in bene e migliorarlo. Grazie davvero, grazie. Grazie a voi, grazie. Buona giornata. Ringrazio Pietro Basciano, ricordo Presidente della Lega Nazionale Pallacanestro. Antonello, vado, sì, banalmente se tu dovessi cristallizzare la situazione attuale, che fai come risarciresti quelli che l'anno prossimo non potranno partecipare alla Serie A? Ipotesi. Questo è un bel problema, perché mi metto ovviamente nelle vesti del Benevento, così come, senza fare paragoni, quelle del Liverpool in Inghilterra, diciamo più o meno le stesse cose. Io credo che bisognerebbe qui trovare una via ragionevole per non mortificare gli investimenti e non mortificare, come dire, il merito. Detto questo, io credo che ci siano sul tavolo una serie di misure da discutere, su cui confrontarsi, tra quella del presidente Gravina che chiede €1% sul cucuzzaro delle scommesse, e poi l'abolizione del divieto di betting, di pubblicità del betting. Oggi Ghirelli, presidente della Lega DC, che è una delle più sofferenti, sta pensando di eliminare l'anno 21 le fideiussioni per consentire a tutte le società di confermare la propria partecipazione. Io credo quindi che ci voglia veramente, lo so che è difficile, forse sono un sognatore nonostante la mia esperienza, ma che ci voglia un patto della rinascita per il calcio, altrimenti le società faranno un botto, la Serie C, la Lega Dilettanti, la Serie C avranno dei grandissimi buchi, non soltanto economici, ma di organico, e non si può certamente pensare, in un momento in cui tanta gente ha difficoltà a fare la spesa, di chiedere i soldi al governo. Bisogna agire su queste leve un po' interne, un po' fiscali, di agevolazioni fiscali, credito d'imposta, la defiscalizzazione, i diritti TV, la legge Melandri e tutto quello che si può mettere in campo, tenendo ben presente però, ripeto, lo scenario complessivo in cui lo sport, non solo il calcio, deve muoversi. Sì, patto della concordia, Pier, andiamo sì, bene. Sì, assolutamente. E fra l'altro non dimentico quello che diceva Malagò qualche giorno fa, che essendo questa una crisi globale, dietro a ogni crisi, al di là degli aspetti ovviamente tragici, terribili, però dal punto di vista del sistema c'è sempre comunque un'opportunità, c'è anche l'opportunità magari di recuperare delle posizioni se sapremo essere in grado di interpretare tutto questo e di cambiare le cose che non vanno. La crisi, la turbolenza porta con sé da sempre storicamente la possibilità di una rinascita. Dopo la peste c'è stato il rinascimento, quindi questo è assolutamente un auspicio, mi unisco a quello che dice Antonello. È chiaro che non è semplice, lo vediamo da questi primi chiari di luna, perché comunque poi gli stakeholder, le posizioni sono tante, spesso sono in conflitto l'una con l'altra, però può essere un'occasione. Se vissuta bene può essere, fatto che, dal punto di vista del sistema calcio, un'occasione di rinascita. Il fatto è che se non si arriva al patto della Concordia facciamo un'altra estate al TAR, tu lo sai, perché la pioggia di ricorsi scatteranno al minuto zero. Deve evitare. Questa è una tragedia, al di là degli aspetti ovviamente più terribili, più tremendi che stiamo vivendo di giorno in giorno, perché insomma poi è chiaro che siamo lì a sperare che ci sia una riduzione, però ogni giorno è come se ci fossero tre terremoti in Italia. Un mio collega l'altro giorno ha usato questa espressione, da un punto di vista proprio le cifre che arrivano sono drammatiche. Però ecco, appunto, dovendo pensare a quello che succederà nel futuro dell'orticello dello sport, che comunque è importante perché è una filiera importante del mondo, delle passioni e anche dell'economia di questo paese, deve essere l'occasione per cercare di ripartire e per farlo correggendo le cose che non andavano, perché veramente tante situazioni si azzereranno. Allora si può arrivare a una crisi strutturale che può durare in eterno, oppure si può reagire. Qualche cosa, secondo me, di buon senso deve essere fatta, anche tutto il discorso del Betty, che è chiaro che è arrivato in un momento che era completamente diverso, no? Una situazione completamente diversa, aveva anche una sua logica quel tipo di provvedimento. Oggi ogni risorsa, ovviamente, nell'ambito della legalità, ci mancherebbe altro, deve essere messa sul piatto. Le società devono mostrare anche dal punto di vista della comunicazione uno spirito comune, che non è semplicissimo, però davvero è come sempre, anche nell'orticello del mondo del calcio si vince insieme o si perde insieme, o il sistema si attrezza per poter reagire, o se no se si continua il conflitto fra un club e l'altro, fra un interesse e l'altro, secondo me non si va per terminare. Vabbè, ragazzi, grazie. Grazie Antonello, a presto. Grazie a voi. Grazie. Ciao, Pier, ci sentiamo domani con te. Adesso ascoltiamo la borsa e poi apriamo il Bar Tour con un grandissimo ospite al Cinque Cerchi. Per evitare i ricorsi di qualsiasi tipo, il congelamento va fatto alla fine del girone d'andata, perché tutti hanno giocato le stesse partite con le stesse squadre, perché altrimenti verrebbe fuori veramente un casino. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Io credo nella presenza di elementi misteriosi in mezzo alla gente. Sono sicuro che voi siete cristiani, umani, umanizzati se non altro, ma sono altrettanto sicuro che in mezzo a voi c'è qualche presenza misteriosa. Qualche angelo, ma non gli angeli dipinti nelle chiese, non solamente loro, non i troni, non i serafini, non i cherubini, ma un angelo un po' laico, il più laico di tutti, che è l'angelo custode. Quello che personalmente mi è sempre stato simpatico fin dall'inizio, che il cielo, dicono i nostri genitori, ci affida a lui, perché da bambini ci protegga. E lui ci protegge non solo da bambini, ma anche quando diventiamo vecchi. Per esempio, quando un bambino gioca per strada, che la palla gli va nella strada, non guarda a destra cosa arriva. E se arriva un camion, una bicicletta, una zanzara, arriva l'angelo e trac, lo salva. O un vecchio, quanti vecchi si addormentano al pomeriggio mentre leggono il giornale, magari gli occhiali si storgono, e l'angelo sottile come il vento glieli drizza. Allora, io siccome credo che tutti quanti prima o poi ce ne dobbiamo andare, anch'io, permettetelo. Tutte le sere lo faccio questo rito, però è voluto, è anche preteso, ma mi è venuta una specie di paranoia, perché penso, e se noi ce ne andassimo e il nostro destino fosse ritornare, e se quando ce ne andiamo poi ritorniamo migliorati, allora se io questo mio presente fosse già un ritorno, per cui io fossi molto meglio di quello che sono, in realtà mi conosco, non sono per niente una cosa buona, ma mettiamo che io fossi già migliorato, ma se comunque non fosse ancora così, il prossimo ritorno mi piacerebbe essere un angelo, e non un serafino, non un trono, non un cherubino, ma un angelo custode normale, così starei insieme ai bambini, insieme ai vecchi, praticamente insieme a voi. Allora mi dico, giochiamo come se io fossi a un ritorno, e se invece di essere quel cantantino che sono, fossi un angelo. E se io fossi un angelo, davvero? E se io fossi un angelo? Mm. Bar Tour aperto anche oggi. Buongiorno Marino Bartoletti, Leo Turrini. Buongiorno, è sempre una gioia sentire Lucio Dalla, anche se dopo la lunghezza dell'introduzione ci ha negato le sue parole sugli angeli, perché credo che ci sia un angelo ospite oggi, vero? Sì, cioè, sta per arrivare un grandissimo angelo a Cinque Cerchi. Ciao Leo Turrini. Come andiamo? Guardate, purtroppo sulla Piero Cormano non c'è più nessuno. E cosa fai ancora? Però lì? Devo dirvi che è una buona cosa che non ci siano più le code, che non ci siano ingorghi, perché vuol dire che noi italiani stiamo facendo quello che è giusto fare. E dato che stiamo per accogliere Yuri Cake, il Signore degli Anelli, io ne approfitto per raccontarvi un aneddoto. Vai. Che deve essere per ognuno di noi fonte di ispirazione. Noi naturalmente anche in questo contesto così malinconico, così drammatico, parliamo di cose di sport. Ieri è stata annunciata la nuova data delle Olimpiadi di Tokyo, che slitta di un anno, eccetera, e giustamente tanti campioni, ma anche aspiranti tali o solo comprimari, sperano di essere pronti con 12 mesi di ritardo rispetto alla scadenza che era prevista prima di questa catastrofe. Ecco, allora prendiamo esempio dal mio amico Yuri, perché voglio dirvi una cosa, sto parlando di sport. Yuri Cake non dovette aspettare solo un anno per l'Olimpiade, dovette aspettarne addirittura quattro. Si fece male alla vigilia di Barcellona 92, quando era il grande favorito, e nella ginnastica non è che ogni 2x3 c'è un evento di analogo spessore. E però nella edizione dei giochi di Atlanta del 96, e io c'ero perché sono eterno come Marino, anche lì è riapparso, si è appeso agli anelli, ha vinto la medaglia d'oro, e questa è una grande storia di resilienza che noi dobbiamo raccontare ai nostri bambini, ai nostri nipoti. È durissima, ragazzi, ma ce la faremo, ce la faremo come ce l'ha fatta Yuri. Grazie. Raccontiamolo insieme a lui. Ciao Yuri. Ciao, ciao, grazie per l'invito. Hai sentito, per la convocazione. Hai sentito Marino Bartoletti e Leo Turrini. Marino ti ha evocato prima e adesso ti lascio a lui per la domanda, per la considerazione iniziale. Ma guarda, Yuri sa che ciao, mi fa velo l'ammirazione, l'amicizia, reciproca, tutto quello che posso avere nei suoi confronti. Ormai è diventato un mantra fra me e lui, perché tutte le volte che ci incontriamo gli dico che di tante Olimpiadi che ho seguito, di tante emozioni che ho vissuto, se devo selezionarne una, è quella di quella notte del 28 luglio del 1996, quando per la voce di Andrea Fusco, perché mi piace dire che tante volte anche i telecronisti vincono le medaglie assieme ai campioni che di fatto le conquistano, Fusco disse per 5 volte vola, vola, vola, vola, vola, vola verso il podio, Yuri. Io ero a 10 metri davanti a lui, perché allora ero il team leader di Rai Sport, incrociai il suo sguardo, cosa che lui non può assolutamente ricordarsi, però provai un orgoglio, una commozione che era la stessa che all'alba di quel giorno 6 milioni di persone videro in televisione. I giudici gli diedero 9.887, malgrado il coreano e malgrado lo svizzero, il destino, come ha detto Leo, gli restituì tutto quello che aveva perduto. E che poi in parte ha integrato con l'Olimpiade del 2004, saltando, ricordiamola, anche quella del 2000, per cui poi il destino è sempre stato in agguato nei confronti di questo campione. Io di quel giorno ricordo l'emozione, la commozione, il suo abbraccio con Franceschetti, il fatto che c'erano in tribuna sua mamma e sua sorella, e scoprì che sua sorella era alta, e da quel giorno io ho avuto un dubbio sulla paternità. Anche io. Yuri, si tratta, tu, come diceva Leo, tu di riprogrammazione sei esperto. Adesso l'orologio biologico degli atleti dice che si dovranno riprogrammare allo stesso modo tra 364 giorni, con 364 giorni in più. Sì, perché purtroppo è stata una cosa davvero, io credo anche ovviamente necessaria, anzi secondo me il CIO ha aspettato anche troppo. Era evidente anche questo incaponimento del CIO, capisco tutte le esigenze, necessità, però non si potevano fare quest'anno le Olimpiadi. Hanno fatto comunque bene, nonostante un po' di ritardo, secondo me, a dare la data velocemente, perché in questo modo tutti gli atleti in qualche modo hanno la possibilità di riprogrammarsi. Per alcuni sarà più difficile, per altri magari è un'opportunità per prepararsi meglio e per recuperare dagli infortuni. Quindi, però, questa, a differenza della mia disavventura o di quelle persone che subiscono un infortunio prima delle Olimpiadi, qui diciamo è un problema o un'opportunità per tutti. In parte tutti dallo stesso livello, ecco, quindi secondo me sarà nella capacità degli atleti, dei preparatori, dei tecnici, degli allenatori, di chi programma le attività, farsi trovare pronti fra un anno, insomma. Ma direi che nella criticità forse si può trovare anche un'opportunità. Questa è bella, Leo? Beh, ma guarda, io la settimana grande scorsa ottimismo. Parlavo con Yuri, perché praticamente ciao, Leo, siamo Gianni Pinotto, no? E quindi quando ci sentiamo riusciamo sempre a trovare degli spunti che cercano di allontanarci dalla malinconia, e lui giustamente mi diceva: ma vedi, se io fossi ancora un atleta in attività in questo momento cercherei di pensare che poi avrò due Olimpiadi in tre anni, il 2021 e il 2024, cioè di fronte alla tragedia che tutti stiamo vivendo bisogna anche cercare di valorizzare quelli che possono essere gli appigli, gli spunti favorevoli, insomma i motivi di speranza. E in questo la storia di Yuri è veramente particolare, straordinaria. Devo dire una cosa che Marino Bartoletti ha taciuto prima, posso permettermi, Marino, sì, che naturalmente Marino dice: ah, eravamo ad Atlanta, io mi sono commosso. No, ma diciamo la bocca, io e Marino Bartoletti siamo centenari, c'eravamo all'inizio del secolo quando il grande ginnasta modenese Braglia, no, il mondo con le sue imprese olimpiche 1908-1912, e Marino era lì con me e mi diceva: ma lo sai che io mi immagino che verrà fuori un ragazzo toscano fra qualche decennio che ripeterà le imprese di Braglia. Ed era vero, tanto è vero questo, che addirittura Yuri nella parte conclusiva della sua carriera ha gareggiato per la società Panaro di Modena, che era quella storica del leggendario Braglia, e Marino aveva previsto anche questo. Io non so come faccia Bartoletti a avere questa visione profetica, ma gliene sono grato. Ecco, Marino, ti sono grato per questa tua capacità di anticipare il futuro, bravo Yuri, perché... Ma noi c'eravamo anche quando vinse Romeo Neri di Rimini, non preoccuparti, le abbiamo viste assolutamente tutte. Posso chiedere a Yuri, lui che, come dire, ha superato i 30 anni, se potesse mettere una mano sulla spalla, non so, a Federica Pellegrini, che le direbbe in questo momento? Ma io penso, insomma, consigliare a Federica non ne ha bisogno, però io credo che lei non avrà grosse difficoltà ad arrivare e a programmare un anno in più della sua carriera sportiva. Ecco, della considerazione giusta che faceva Leo, che condivido, di alcuni atleti che possono pensare che questa volta hanno due Olimpiadi in tre anni, quindi può essere uno stimolo anche per cercare appunto di trovare un appiglio in una criticità come questa. Io penso che Federica certamente dopo Tokyo, beh, credo, poi per carità, però dovrebbe smettere, ma per un talento ed una donna così capace di programmarsi, di farsi trovare pronta nei momenti giusti, credo che un anno non conti molto, cioè non è che in un anno, in un'età comunque ancora abbastanza giovane, anche se non è giovanissima come Federica, è solo una questione di testa e di motivazioni. Beh, ricordiamo che la tua medaglia, non dico più bella, ma più significativa, cioè quella di bronzo di Atene, la vincesti a 35 anni. Esattamente, e fai conto che c'è una buona differenza tra il nuoto e la ginnastica. Insomma, un nuotatore a 30 anni può ancora fare molto bene, un ginnasta obiettivamente è un pochino più raro. Quindi io credo che lei sicuramente, con un po' di dispiacere, perché insomma immagino che prima arrivassero per lei meglio sarebbe stato, ma in questo caso non mi sembra, ecco, di tutti gli atleti, guarda, paradossalmente, nonostante l'età, l'esperienza, da tifoso delle Olimpiadi, io mi emoziono in maniera straordinaria durante le Olimpiadi e delle avventure, delle storie sportive, ecco, l'unica che non mi preoccupa è proprio Federica, perché sono convinto che arriverà preparata l'anno prossimo a Tokyo 2020, anche se appunto si parla del 21. Ma anche Elisa Di Francesca, che vedo sui social, si dà attività di mamma e di cuoca, l'ha subita ovviamente questa botta del ritardo, però credo che anche lei la vedremo in pedana. E l'altro giorno Malagocci diceva: scommetto che nessuno di questi mollerà il colpo e saranno tutti ai nastri di partenza olimpici. Ragazzi, vi chiedo un istante di pazienza, Yuri Keke compreso, traffico, torniamo subito e chiudiamo il discorso. signor Turrini, si chiama veramente Leonildo? Caspita, mi spiace. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Signore, poi ti restituisco per l'ultima considerazione a Marino e Leo, ma volevo chiederti una delucidazione. Perché hai detto che il CIO ha aspettato anche troppo per rinviare i giochi? Ma perché seguivo le dichiarazioni del presidente Bach che diceva che sarebbero fatte le Olimpiadi in luglio di quest'anno, quando era evidentemente chiaro che non sarebbe stato possibile. E quindi secondo me non molto, ma si sono perse alcune settimane. Quanto ripeto, era evidente che non sarebbe stato possibile, addirittura si parlava a qualcuno Olimpiadi a porte chiuse, una cosa assurda, impensabile, non avrebbe avuto proprio senso. Ecco, io proprio per dare la possibilità agli atleti di prepararsi nel modo migliore possibile, prima possibile la decisione delle date del rinvio sarebbe stata opportuna, ripeto, non molto, ma qualche settimana si è persa secondo me. Sì, io sono d'accordo, Leo. D'altra parte, l'altro giorno Beruto ha detto con la pallavolo ha vinto due medaglie alle Olimpiadi, ha detto il villaggio olimpico è la cosa più vicina al paradiso che conosco, in questo momento il paradiso è chiuso. Ma sì, ma poi appunto il villaggio olimpico, ma come, con che razionalità si pensava a luglio, con quello che sta succedendo nel mondo, di portare più di 10.000 atleti in un unico posto e farli convivere per tre settimane? Portare in una città gli spettatori dal mondo intero, in una città dove non so come era possibile che il problema del virus era inferiore a quello che realmente è. Ora si comincia a vedere che anche in Giappone, in Tokyo, la situazione è difficile. Invece prima di questa decisione i titoli dei giornali mettevano il coronavirus in terza pagina. Quindi ecco, mi sembrava davvero poco realistico, ripeto. Poi la decisione ci mancherebbe arrivata, però forse anche un pochino in ritardo. Posso comprendere tutte le situazioni anche di diritti, sponsor, certo, economiche, certo. Però insomma era evidente che non si poteva fare. Leo, vuoi chiedere l'ultima cosa, Yuri? Sì, vorrei chiedergli per metterci avanti con il lavoro, dato che purtroppo io e Marino non siamo candidati credibili. Yuri, a chi facciamo portare la bandiera alla cerimonia inaugurale di Tokyo 2021? Ma chi è il tuo candidato in questo momento? Intanto, se ho capito bene, si può portare in due, quindi non vedo male la scelta Turrini e Bartoletti. Io comunque farei un po' fatica a fare il giro di campo, no, quindi dobbiamo puntare su qualcuno che sia, diciamo, no, così atleticamente più sano. Vediamo, a noi servirebbe la macchinetta come quella di Mandela. No, il problema più grosso sarebbe identificare chi è la femmina delle due, secondo me, con tutto rispetto. Perché allora sì, Leo, tocca a te, Leo. Ah, io accetto. Farei portare il Pestillo per il campo, diciamo, il lato maschile a Gregorio Paltrinieri. E lo farei portare invece come donna Elisa Di Francesca, proprio per le cose che ha detto in questo periodo, lei, mamma, eccetera, la fatica che immagina di poter arrivare a quell'appuntamento. Vorrei, dato che la conosco, un'amica, la stimo tantissimo, che fosse in grado di partecipare, e sarebbe bellissimo vederla entrare insieme a Greg con il tricolore in mano nello stadio di Tokyo. Mi fai aggiungere, Leo, che in questo caso, Leo, posso aggiungere che sarebbero due poliziotti a portare quella bandiera, e sarebbe anche molto significativo per quello che stanno facendo tanti corpi di polizia, i medici, gli infermieri, tutti quanti sappiamo per noi in questo momento. Anche se la proposta di Yuri a me sembra grandissima. Posso dire una cosa, mi dispiace, no? A parte rispondere seriamente un attimo, nel senso che io, guardate, grazie per avermi ricordato delle medaglie olimpiche, poi ho avuto anche 5 mondiali, 4 europei straordinarie, per me risultati sportivi, ho avuto una vita sportiva meravigliosa, con grande fatica, però rifarei tutto quello che ho fatto, ma l'alfiere, il portabandiera di Atene del 2004 è uno dei momenti più belli personalmente, che ho vissuto, è un'emozione, un onore straordinario, però mi permette di andare un po' controcorrente e col rischio anche di essere un po', ecco, criticato, impopolare. A me però non piace molto la scelta dei due portabandiere, lo dico con la consapevolezza che tantissimi atleti avrebbero, italiani, diciamo tutti i presupposti per farlo, però ecco questa doppia scelta, anche perché comunque poi la porta uno la bandiera, non ci sono due bandiere, quindi c'è comunque una differenziazione. Mi pare più di una scelta, ecco, di politicamente corretto e accontentare magari più una federazione in più, e credo che invece lui, il portabandiere, si deve scegliere tranquillamente, serenamente, con la consapevolezza che una scelta va fatta. È chiaro, avete fatto due nomi che tutti e due assolutamente potrebbero essere due alfieri portabandiere, ma ecco, so che sono uno, forse l'unico, che la pensa così, ma a me l'idea di fare il doppio portabandiere obiettivamente non mi piace tantissimo. Ecco. Siamo almeno in due. Ecco, allora facciamo male, così, meno male. Un portabandiera solo, e lo faccio io perché Marino starà scrivendo un nuovo almanacco sul Festival di Sanremo, non avrà tempo per sfidare a Totti. Carlo, c'è tempo per un'ultima domanda veloce. Sì. Allora, noi sappiamo che Iuri è stato un discreto ginnasta, l'ha fatto quasi per hobby, ma non è mai stata la sua attività principale, per cui lui ha sempre sognato di poter diventare un ciclista. E come tale lo abbiamo rincontrato sulle strade in salita del mondo. Il nostro ciclismo, Iuri, quel ciclismo di cui abbiamo già perduto, come tutti gli sport purtroppo, manifestazioni così importanti, la Milano-Sanremo, forse il Giro d'Italia, eccetera, eccetera, eccetera, ti fa soffrire un pochino questa cosa? Ma guarda, mi sembra più che soffrire irrealistico, cioè davvero, sai quelle cose, dici, ma che non ci credi, no? Che, come io oggi, quest'anno non vedo il Fiandre, la Milano-Sanremo, la Tirreno-Adriatica, è una cosa secondo me straordinaria, il Giro d'Italia in discussione, davvero è paradossale, però credo che, quindi mi fa soffrire molto, anche perché abbiamo un ciclismo italiano secondo me che ci potrebbe dare grandissime soddisfazioni come tanti altri sport, però devo dire altrettanto che in una situazione come questa tutto passa in secondo piano, e anche lo sport, insomma, con tutto il dispiacere, però è giusto e ci sta che tutti facciano un passo indietro, e il bene supremo, che è quello della salute nostra e dei nostri cari, dei nostri concittadini, deve essere al primo posto, quindi anche con sofferenza, però si accetta appunto. Grazie Iuri. Grazie a voi, è sempre un piacere, davvero, grazie. Ciao Marino, ciao Leo, ti voglio tanto bene. Ciao. Piacere nostro. Quindi la bandiera la porta Leo Turrini, e tu Marino scrivi il prossimo Maracco, le feste di Sanremo. L'abbiamo risolta così. Io sarei orgoglioso di vedere Leo Turrini col vessillo del nostro paese in mano. Ragazzi, come la vivete la situazione querel dei presidenti? Riprendiamo l'attività, no, finiamola qui, e no, tagliamo gli stipendi, no, non li tagliamo, e guarda la Juventus che se l'Italia, e noi che facciamo? Con tanta malinconia, Carlo, con tanta malinconia, cioè se questa vicenda ci insegnerà mai qualcosa, è quella che dobbiamo ritrovare l'idem sentire, il senso comune. Il piacere di fare un passo indietro a favore della comunità. Guarda, è molto assimilabile quello che sta accadendo a quello che è accaduto nel secondo dopoguerra, quando l'Italia tornò a pedalare tutta assieme. Guarda che pedalare non soltanto metaforicamente, perché pedalò anche in bicicletta, tornando a vincere grazie ai due campioni più grandi che avevamo in quel momento. Pedalare è bellissimo perché è una cosa democratica, perché si pedala col pedale destro e col pedale sinistro, però ci vuole qualcuno che tenga il manubrio e che sappia dove portare questo paese e lo sport di questo paese. Leo, volevo invece un tuo commento finale su una cosa che ho letto oggi sui giornali, e cioè il tuo amico Helmut Marko, quello della Red Bull, austriaco, sguardo abbastanza inquietante, che ha detto: va bene, riprendiamo la Formula 1, sapete come facciamo? Facciamo un coronavirus camp per i piloti, li facciamo infettare e poi correre. Ma guarda, l'ho letto anch'io, non se lo ricorda nessuno, ma Helmut Marko negli anni giovanili è stato un pilota della Ferrari, allora c'era il mondiale Marko sui prototipi, correva in coppia con un olandese che si chiamava Van Lennep, e una volta Ferrari mi disse: beh, forse come pilota questo Marko non sarebbe neanche male, peccato che sia un imbecille. E devo dire che l'aveva capito quasi mezzo secolo prima del coronavirus, e io non posso fare altro che allinearmi alla storica presa di posizione del Drake di Maranello. Lo facciamo tutti. Voglio bene, porterò la bandiera anche per voi a Tokyo 2001. Ci salverà l'amore. Ma presto. Grazie, ciao. Grazie Leo. Beh, possiamo accodarci anche all'ultima chiosa di Leo Turrini, Marino. Assolutamente sì, guarda, ne ha sbagliate poche di profezie il grande vecchio, questa è una di quelle meglio riuscite. Ciao ragazzi, vi voglio ciao. Bene anch'io come Yuri Chechi, ci sentiamo martedì prossimo e con voi invece ci sentiamo domani tutti convocati alle 14. Ringrazio di nuovo Alessandro Marco Tutti, Marco Tulli, Claudio Schiattoni in redazione, Roberta Frisani in regia, ciao. Minchia, è stato una montana russa. Ci vediamo domani, enjoy. Saluti!